La ilaha illallahu ahlun na'ama. Non c'è divinità tranne Allah, titolare di tutte le grazie. Walahul fadlu walahu thana'ul hasan. A lui appartiene il favore e la bella esaltazione. La ilaha illallahu adada khalqihi. Non c'è divinità tranne Allah per il numero delle realtà della sua creazione. Warida'a nafsihi wa midada kalimate, per la sua benevolenza, per il soccorso delle sue parole.